ce l'ho ancora! Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano. Eccola qui. Arriva dunque la quindicesima stoccata e l'ungherese Zaz si è laureata campionessa olimpica sconfiggendo 15-13 Rossella Fiammingo. Peccato perché comunque volevo vincere la 200ª medaglia d'oro, ci è sfuggita, ma bisogna essere contenti perché questi momenti non tornano più. A un certo punto, sinceramente parlando, non ci credevo nemmeno più di più, che mi sono visto indietro, e detto vabbè ragazzi dai, mancano 100 metri, proviamo. Eh sì, non abbiamo ancora finito di festeggiare le prime due medaglie dell'Olimpiade italiana, Rossella Fiammingo, Gabriele Detti, questa notte, quando in Italia in tanti dormivano, dall'altra parte, Rio de Janeiro, Detti faceva una gara per chi è stato sveglio da infarto, poi ne parliamo. Non abbiamo ancora finito di festeggiare, già stiamo provando a costruire in questa seconda giornata 5 cerchi qualche altra speranza di podio. Intanto nessuno ci ha preso, Carlo Genta, sul pronostico della 200ª medaglia d'oro azzurra alle Olimpiadi. È andata male a Matteo Renzi, è andata male a tutti. Sì, è andata male soprattutto alla Fiammingo, che insomma, una volta arrivata lì, una volta in vantaggio nella finale, tutti pensavamo potesse farcela, no? Invece abbiamo sentito la sua voce, bellissimo essere qui, una medaglia d'argento è comunque una medaglia vinta, però la delusione è palpabile, insomma. Sì, delusione, anche se ha fatto qualcosa di storico, Rossella Fiammingo, prima donna a salire sul podio alle Olimpiadi nella gara individuale di spada. Oggi abbiamo 5 punte, Jessica Rossi nel tiro a volo, fossa olimpica, poi sta per partire la gara femminile di ciclismo su strada, e tifiamo tutti Elisa Longo Borghini, poi abbiamo Tania Cagnotto e Francesca Dallapè che hanno un conto da saldare con il destino, 4 anni dopo Londra 2012. Stiamo seguendo gli uomini del fioretto, Avola, da Daniele Garozzo e Cassarà. Da infarto anche l'assalto notte di Cassarà. Sì, Cassarà che ha rischiato il primo turno. Dario Ricci, Dario De Janeiro. Ciao Dario. Ciao Dario. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Allora, se ci racconti questa mattinata che abbiamo detto sta seminando speranze sul percorso degli azzurri. Beh sì, non dimentichiamo anche Odette Giuffrida nel judo, perché la ragazza è ben determinata ed è arrivata ai quarti di finale contro la Basile, quindi c'è anche lì la possibilità di una medagliuccia. Per il resto appunto i fiorettisti sono agli ottavi, Jessica Rossi in corsa nella semifinale e quindi pienamente in corsa per confermare il titolo di Londra di 4 anni fa. Insomma, c'è veramente la possibilità di aggiungere qualche medaglia se arrivasse la 200ª, banale dirlo, sarebbe tutti contenti, saremmo tutti abbastanza felici, anzi molto felici. Dario, comunque la giornata non promette male, anche perché abbiamo visto una grande Italia della pallavolo. Sì, un 3-0 nettissimo sulla Francia, anche al di là delle aspettative, perché sappiamo bene che la Francia, anche sotto rete, così come nel basket negli ultimi anni, è cresciuta moltissimo. 3-0 che riscatta in parte invece il 3-0 subito ieri sera qui a Rio dalle ragazze di Bonita contro la Serbia. Per le ragazze bisogna dire che il girone è sicuramente più difficile, anzi difficilissimo, e la Serbia per paradosso era una delle avversarie più abbordabili, quindi potrebbe essere una sconfitta davvero pesante, ragazzi. Mentre per gli azzurri, effettivamente si parte col piede giusto, e soprattutto il figlio messo in campo da Zaitsev e compagni fa ben sperare, anche perché il cammino che si profila nel torneo, se tutto dovesse andare nel verso giusto, sembra leggermente più abbordabile. Detto che il programma della mattinata del canottaggio è stato prima rinviato e poi cancellato per il vento, dopo che ieri avevamo visto l'imbarcazione serba addirittura finire sott'acqua, ribaltarsi e causare l'eliminazione dell'equipaggio, detto che nel turno dei sedicesimi dell'individuale fioretto maschile sono andati avanti tutti, Avola, Garozzo e Cassarà, ma soprattutto l'assalto di Cassarà con il francese Cadeau, 15-14, ha tenuto tutti incollati alla pedana all'ultima stoccata e di rimonta, rimonta. E anche una stoccata che è stata contestata dal francese, che ha chiesto la moviola in pedana, non in campo, e gli è andata male. Gli è andata male. Poi nell'arco stiamo cercando, Dario, di prenderci una piccola rivincita dopo la delusione, inutile girarci intorno, di ieri, ma le donne insomma si stanno facendo strada, sono nei quarti contro la Cina. Qual è il clima oggi? Cos'è stato il clima tra ieri e oggi a Casa Italia? Di un sabato, diciamo la verità, due medaglie non si buttano via, prestigiose, belle, straordinarie, ma il raccolto che ci si attendeva ieri, al netto della sfortuna di Nibali, era ben diverso. Non è detto neanche tanto, perché per Nibali è stata veramente una sfiga colossale, caduta con frattura, cioè al posto della medaglia è arrivata una frattura multipla alla clavicola, Dario. Sì, guarda, la vicenda di Nibali è veramente dolorosamente paradossale, perché come la medaglia in qualche modo era già al collo, bisognava decidere il colore e il metallo, e probabilmente sarebbe stato anche il più bello. Devo dirvi, le facce che si sono viste finché al momento in cui la Fiammingo ha conquistato il suo argento, le facce istituzionali, ma vi dico anche quella del Premier e quella dello stesso presidente del CONI Malagò, erano tutt'altro che allegre, perché anche nell'immediato quello di Rossella è sembrato davvero un argento perso, e probabilmente la sensazione rimarrà anche almeno fino a Tokyo 2020. Devo dire che però poi il bronzo di Detti ha cambiato completamente questo clima, perché è una medaglia storica importantissima, e soprattutto, anche sentendo le parole di Stefano Morini, accende una luce diversa anche in prospettiva 1500, perché nel momento in cui arriverà un Paltrinieri che il cronometro e chi gli sta vicino lo descrivono già molto molto carico e davvero in forma, con un Detti così, ecco, i 1500 diventano interessanti, veramente stuzzicanti. Sì, rischiano in senso positivo di diventare terreno nostro. E intanto abbiamo anche già cancellato lo zero nel nuoto di Londra 2012, Diodette Giuffrida, abbiamo detto, quarti di finale categoria 52 kg femminile di judo. Fabio Basile, anche lui nei quarti di finale categoria 66 kg, ha vinto i primi due incontri per Ippon, per KO, molto bene. Quindi molto ci fa sperare. In campo Lupo e Nicolai nel beach volley, primo set, sono avanti 9-6. Dario, torniamo con te dopo le 18:30, perché ci sarà molto da raccontare anche di quello che sta succedendo adesso, e poi ci proietteremo soprattutto, credo, sulla serata tra Tuffi e Scherma, che potrebbe regalarci qualche soddisfazione. Grazie Dario. Ciao Dario, a dopo. Grazie a voi, abbraccio. 800-24-00-24, vi aspettiamo fino alle 19, Nicola. Pronto? Eccoci. Pronto? Sì, grazie della convocazione. Vai. Senti, io volevo fare un commento insieme a voi per quanto riguarda la prestazione di Nibali di ieri, no? Sì. Praticamente si stanno tutti stracciando le vesti, tutti convinti che sarebbe andata a medaglia, ma a parte che era tutto da verificare, perché mancava ancora un po' all'arrivo. E tutti si sono dimenticati per quanto riguarda la vittoria del Giro d'Italia, la caduta di Kruijswijk, cioè fa parte della corsa, la caduta. Nicola, però non possiamo certo dire che è andata bene così. L'Italia ha fatto una grande corsa, Nibali stava facendo una grande corsa, hai ragione, non si sapeva se non era una cosa certa la medaglia, né tantomeno la medaglia d'oro, però tra la medaglia da una parte e il cadere spaccandosi tutto c'è un discreto abisso, quindi non possiamo essere contenti, no? Poi è chiaro che lo sport è dare e avere, i colpi di fortuna o di sfortuna colossale come quella di ieri capitano a favore e contro, però cioè, siamo tutti molto amareggiati per questo, no? C'è anche una corrente di pensiero che dice che Nibali ha rischiato troppo e che in quella discesa si poteva anche stare un po' più attenti, perché era l'ultimo ostacolo prima di andare verso una medaglia. C'è anche chi l'ha scritto e quindi c'è anche questa corrente di pensiero. Io vorrei sapere anche cosa ne pensano i miei amici a casa. 800 24 0024. Saluto subito Leo Turrini. Ciao Leo. Eccolo qua. Voi lavorate anche la domenica, ma avevate detto che era domenica in perfetto stile Carlo Genta, stavate a casa. Quando, ma siamo sempre, sono, ma se siamo sempre qui. Sono veramente sterrefatto. Beati voi, le Olimpiadi c'è solo ogni 4 anni, quindi di domenica lavorate solo ogni 4 anni. Non sei un ascoltatore attento, perché noi siamo qui ogni maledetta domenica, any given Sunday. Aspetta, Leo, abbiamo il traffico, però volevo lasciarti con la riflessione su Nibali, azzardato adesso oppure sfortunato, accendiamo Turrini con Nibali, oppure semplicemente cui la sorte ha restituito quello che aveva dato al Giro d'Italia con la caduta di Kruijswijk, non lo so, anche voi se volete 800 24 00 24, traffico, torniamo. Già partecipare è bellissimo, però vincere una medaglia significa rimanere nella storia ed era quello che volevo fare oggi. Tutti convocati. Convocati. Perché sono vicinissimi i primi inseguitori. Attenzione, una caduta. La caduta di Henao. Anche Vincenzo Nibali. Caduta di Sergio Henao e Vincenzo Nibali. È difficile trovare le parole perché i ragazzi sono stati fantastici. Avevamo studiato una tattica e tutto quello che avevamo pensato l'abbiamo fatto. Solo che, sai, quando sembrava già tutto fatto c'è stata questa caduta che ci ha tolto una medaglia sicura. Io credo sia impossibile dire che Nibali dovesse tirare il freno in quella discesa pensando di andare verso Copacabana, il podio sicuro, magari anche la medaglia d'oro. 800 24 00 24. Leo Turrini, a volte lo sport, le Olimpiadi sono davvero una roulette russa. Brucia da morire. Ero a Copacabana ieri per questa gara, ti posso, come Woody Allen dal volume, citarsi addosso, citare l'attacco del mio pezzo di oggi. Non hai mai visto un uomo piangere? Apri bene gli occhi, sai, perché ora tu lo vedrai. Io devo dirvi che questa di Nibali è una delle storie olimpiche più commoventi di sempre, perché è vero che il ciclismo è fatto di cadute, è vero che le cadute in passato hanno anche aiutato Vincenzo a vincere un tour e forse anche l'ultimo Giro d'Italia. Però un'Olimpiade non c'è ogni anno come il Giro del Tour. Un'Olimpiade nella carriera di un ciclista, poi come Nibali, c'è una volta sola, perché sì, c'è ogni 4 anni, dipende dai percorsi. E lui ieri stava facendo la più bella corsa della sua vita. Io mi sono emozionato in una maniera che non potete immaginare. Quando l'ho visto per terra... sono rimasto malissimo, perché questa, lasciando perdere le tragedie vere ovviamente, è la crudeltà dello sport, perché tu vedi uno, e ha detto bene anche Cassani, non solo lui, l'intera squadra, che ha fatto tutto benissimo, che si è scrollato di dosso, Froome, Valverde, Pulito, Rodriguez, la gara perfetta. Insomma, siamo tutti andati a scuola, ragazzi. Ettore, il professore ci leggeva Ettore, noi sapevamo che avrebbe vinto Achille, ma facevamo il tifo per Ettore anche se eravamo consapevoli che gli dèi non gli avrebbero mai permesso di vincere quel duello. Anibali qui è stata la stessa cosa, una poesia assoluta. Io veramente sono dispiaciutissimo, ma anche grato di aver potuto essere testimone di questa vicenda, perché sarà da raccontare, secondo me sarebbe anche da farci un libro tra qualche anno. No, perché tu pensa a uno che ha vinto il Giro, il Tour, la Vuelta, è uno dei pochi corridori nella storia ad aver realizzato questi successi, che per 2 anni, dopo aver visto questo percorso di orrida bellezza, perché il fascino di questo circuito Copacabana, ragazzi, dovevate essere lì, la spiaggia, poi c'era questa montagna improvvisa, i tratti di Pavè, gli organizzatori sono stati meravigliosi. Ecco, sei lì, sei Vincenzo Nibali, praticamente fatta, e gli dèi non vogliono. Ragazzi, ma questa è la bellezza. E lo sport è questo, Leo, lo sai benissimo. Ma dopo sport, il pirata e il cowboy, dobbiamo trovare un titolo del prossimo libro sul ciclismo. Io, caro Genta, ieri lì in quella sala stampa, sono come cantava Gianni Bella, non si può morire dentro, sono morto per 10 minuti, sono morto. Sì, però sai cosa, Leo, ma da morire. Poi prima chiama un ascoltatore, chiama Nicola e dice Nibali si è ripreso, cioè ha dato agli dèi dello sport ciò che aveva ricevuto al Giro d'Italia con la caduta di Cruesi. Ho capito, però non puoi dire. Secondo me non puoi consolarti così, cioè non è una consolazione. Anche perché, Carlo, come dicevamo, questa è l'Olimpiade, questa è una gara che Nibali non avrà mai più occasione di fare, come non l'aveva avuta prima, hai capito? Cioè il Giro, il Tour, puoi vincere o perdere anche per una caduta, ma hai una carriera davanti, no? Sì, invece questa è un'occasione che difficilmente ricapiterà, anche per il tipo di percorso. Questo è un unicum, veramente. Saluto Ivan Basso, ciao Ivan. Ciao Ivan. Ciao a tutti. È sufficiente come consolazione pensare che la sorte si è ripresa quello che ti aveva regalato un paio di mesi fa il Giro? Parliamo ovviamente di Vincenzo Nibali. Io vorrei parlare di un grande Vincenzo Nibali e di una grandissima Italia, più che purtroppo il ciclismo è così, ci sono delle situazioni che non si possono controllare, come la caduta di ieri di Vincenzo. Non è questione di che al Giro ha avuto e qui ha perso. Io credo che è un'occasione ovviamente che difficilmente per Vincenzo si può ripresentare un'occasione di questo tipo in un finale di un'Olimpiade dove aveva grandissime probabilità di vincere, però questo è il ciclismo, queste sono cose che capitano e purtroppo tutta l'Italia ha sofferto con lui e soffre con lui per questo incidente. Sì, come dice Leo Turrini, questo treno non passerà più per Nibali, quindi possiamo anche capire il dolore, perché non è nemmeno come per gli altri olimpionici. Sai, Federica Pellegrini ha cominciato ad Atene a 16 anni, adesso è ancora lì, e poi prima abbiamo visto Cassarà, che pure ad Atene aveva preso la medaglia d'oro. Ma per Nibali la situazione Olimpiade, percorso perfetto, gara perfetta dell'Italia, come dice Leo, è un po' morire dentro, Purtroppo, come ho detto, è difficile anche trovare le parole per... Ha rischiato troppo? Lo chiedo sia a te Ivan Basso che a Leo Turrini. Ha rischiato troppo in quella discesa, che lo stesso Cassani ha detto quella era l'ultima curva pericolosa? Scusa, rispondi tu allora prima, poi dico la mia. No, è molto meglio, ragazzi, che risponda prima. Non fate i complimenti, capisce più di me. Guardate, io credo che giudicare una discesa di Nibali, proprio di Nibali, che è uno dei migliori discesisti che ci sono al mondo, non è il caso. Vincenzo sicuramente, in un finale di un'Olimpiade dove si gioca la medaglia d'oro, è chiaro che scende al massimo delle possibilità. Dopo le cadute in bicicletta capitano, come ho detto, è sufficiente un imprevisto anche minimo, che io sinceramente non ho parlato con lui e non so esattamente nemmeno come la dinamica della caduta, se è caduto per gli scivolata la ruota davanti, tutte e due, si è preso un sasso, si è preso non so che cosa. Quindi ci sono tanti modi e tante situazioni che possono così creare una caduta in discesa, però a Vincenzo non bisogna certo dirgli come bisogna fare le discese. Certo, me ne ricordo una tua in maglia bianca al Tour de France, strada bagnata e per causa, credo, mi pare di ricordare della striscia bianca della, su cui ti è scivolata la bicicletta. Sì, ma nel mio caso io ero un pessimo discesista, Vincenzo è un bravissimo, è bravissimo in discesa, quindi ha costruito altre vittorie con delle discese fatte molto bene. È stata così, è andata così, e purtroppo io credo che bisogna guardare, ci sono due cose importanti. La prima, che lui aveva due obiettivi quest'anno, il primo era il Giro d'Italia, il secondo era l'Olimpiade. Il Giro l'ha vinto e l'Olimpiade era in lotta per vincere. A mio modo di vedere, con quei tre non sarebbero mai stati ripresi, e con tre aveva veramente tantissime possibilità di conquistare l'oro. La seconda cosa è che io ho visto un'Italia fantastica, un'Italia sempre presente, sempre in superiorità numerica, e tutti che hanno dato il cuore per i colori dell'Italia. Quindi questo è quello che l'Olimpiade lascia a tutti noi. È chiaro, c'è anche questo così, questa amarezza, però dobbiamo superarla. Vincenzo è un grande campione, e chiaro, non ci sarà magari l'Olimpiade, poi non sappiamo quanti anni vorrà ancora correre, però ci sono altri traguardi che non sono l'Olimpiade, ma Vincenzo è così, è un atleta che ha vinto tanto e continuerà a vincere. Sì, da una botta così in qualche modo bisogna rialzarsi. Grazie Ivan. Ciao Ivan. Grazie a voi. Grazie Ivan Basso. Non hai mai visto un uomo piangere? Guardami, guardami. Hai visto Leo? Bravissimo, l'abbiamo trovata, detto, Giovanni Melchiori, immediatamente. No, insomma, ragazzi, questa è Anna Di Battisti con le parole di mio amico Mogol. Io ci ho cominciato l'articolo anche perché la frase che ho detto al collega costaricano che era a mio fianco in sala stampa ieri e mi ha visto sbiancare, e dopo gliel'ho dovuto anche tradurre in spagnolo. Comunque volevo concludere sul discorso della discesa. Sì, Io non credo che Vincenzo abbia rischiato troppo. La sensazione che mi ha dato è che lui temesse molto questo polacco Majka, che quando si è agganciato alla ruota sua del colombiano Henao, se ci avete fatto caso, non ha mai dato un cambio, no? Ci voleva chiaramente risparmiare per il finale. Allora lui, Nibali, ha parlottato con Henao e hanno tirato a tutta in discesa perché volevano lasciare indietro questo polacco che non li stava aiutando nella fuga. Sì, perché per poi evitarsi il loro vantaggio sul gruppetto. Sì, il vantaggio sul gruppetto dietro poi non era enorme, quindi voglio dire, se Majka non fa la sua parte c'era anche il rischio che gli seguitori rinvenissero, come poi ai danni di Majka è successo all'ultimo chilometro sul lungomare. Quindi voglio dire, è stato il fatto, l'ho raccontato prima io, però ha detto bene Carlo, è la bellezza dello sport fatta anche di questi episodi, di questi momenti. Io ho visto, senza parlare di cadute, la più grande nazionale di pallavolo di tutti i tempi, quella di Giulio Velasco, dato che stamattina l'Italia ha asfaltato la Francia 3-0 nella prima gara, perdere non una, due Olimpiadi, una nei quarti di finale con l'Olanda di un punto al tie break 17-16, quando, che poi cambiarono, quando pensava la regola, che non ci sarebbe stata assolutamente storia in quell'Olimpiade, era una medaglia assegnata. Barcellona, sì, a Barcellona noi eravamo il dream team del volley, ma pensa che perdemmo il tie break 17-16 e dopo quel risultato cambiarono la regola dicendo ma è assurdo che al tie break basti un punto di differenza, no, per assegnare il set, perché allora chi batte sul 16 pari è fottuto, no? Certo. E 4 anni dopo ad Atlanta, sempre contro gli olandesi che nel frattempo erano diventati una squadra meravigliosa, però non è meraviglioso il collegamento. Abbiamo vinto tutto, li abbiamo sempre battuti, sì, europei, mondiali, World League, Coppa del Mondo, tranne lì. Queste sono cose che, ripeto, fanno poi parte della mitologia dell'agonismo, perché ci sono anche le grandissime sconfitte. Comunque, se sentite dei rumori non preoccupatevi, anche io vorrei darvi notizie del traffico, sono sul pullman che mi sta portando a vedere Tania Cagnotto e la Dalla Pè. Com'è e la situazione, allora, del traffico? Una bella, qui il traffico, ci sono le corsie preferenziali, per diciamo i veicoli olimpici, sì, e questa è una buona cosa. Il problema però è che invece gli autisti sembrano venuti da Piero Cormano, perché non sanno dove devono andare. E ogni tanto si voltano verso di noi e ti dicono me perdeu, e ci perdono. tipo ieri quello che ci portava la gara di Nibali lì tra Ipanema e Copacabana, è stato bellissimo perché ci ha fatto vedere 18 volte la spiaggia. Ma se perdeva, non sapeva dove doveva andare, capito? Leo, se quello di oggi si sta perdendo, fatti portare nel palazzetto del judo, dove c'è Fabio Basile, che è in semifinale, tre combattimenti, tre ippon, l'ultimo pochi istanti fa contro il mongolo Davadori, e la nostra Odette Basile che sta vincendo il suo quarto di finale, però non diciamo niente, c'è Andrea da Bergamo, guarda, che ci aspetta. 800240024, aspetta, c'è meteo pubblicità, torniamo subito così anche con il finale di Odette Giuffrida. A questo punto non ci sono parole, voglio solo ringraziare i ragazzi perché hanno onorato la maglia, non era azzurra, era bianca, ma hanno onorato l'Italia. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Convocati. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Vi voglio far sentire una cosa. Intanto la Giuffrida ha vinto e quindi abbiamo due atleti in semifinale nel judo, Fabio Basile, Odette Giuffrida. Forse il vento è cambiato. Allora, Matteo Renzi è tornato in Italia. Ieri molti hanno ironizzato sulla sua presenza a caccia della 200ª medaglia d'oro, Leo Turrini, che non è arrivata. Questo l'abbiamo raccontato. Allora, ieri Rossella Fiammingo ha spiegato così la giornata che ha passato, attaccata al telefonino. È un giorno che Matteo Renzi mi scrive messaggi, dai forza grande, a un certo punto non li ho guardati più perché mi stava mettendo ansia, però sono contenta che lui sia venuto qui a vedermi. Poi qualcuno gli ha detto, ma allora portava iella Matteo Renzi, e allora ha voluto precisare. Ha tifato tanto Matteo Renzi per me, ma già dei primi assalti qualcuno ha detto porta sfiga, no, perché comunque dal primo al penultimo assalto ci sono arrivata, quindi no, non è andata così. Sono contenta che comunque lui sia venuto a vedermi e che comunque è sempre molto vicino allo sport. Leo Turrini, aiutaci a capire, tu che delle Olimpiadi di presidenti del Consiglio ne hai visti in quantità industriali. Ne hai visto qualcuno? La prima cosa che è venuta in mente a me, Leo, è fa il furbacchione, il vecchio Matteo Renzi con la Fiammingo. Beh, adesso ormai viviamo in un'epoca nella quale tutti twittano, si smessaggiano, eccetera. Ma sai, noi abbiamo una grande tradizione che risale a Edoardo De Filippo, non è vero, ma ci credono. Poi ho anche Totò, no? L'oiettatore. Insomma, è un po' così. Quando arriva un uomo politico, non solo italiano, per un grande evento dello sport, se finisce tutto bene, come il Pertini dell'82 a Madrid, no? Al Bernabeu, allora tutti dicono ha portato buono, eccetera. Se il risultato non c'è, allora si trasferisce la responsabilità, hai capito? Insomma, il malocchio in questo caso su Renzi. Ma io insomma sono abbastanza sereno, voglio dire, il premier è ripartito anche Luca Cordero di Montezemolo, e quindi può anche essere che oggi tra il judo e quant'altro finalmente arrivi la 200ª medaglia d'oro, e perché no, insomma. E in ogni caso poi voglio dire, Un Olimpiade è bella anche per questo, perché poi si scherza, si dice, ah, hai visto questo, quell'altro, viene a farsi bello, oppure mami, mobbing, bomba. Poi alla fine in realtà quello che ci appassiona davvero sono gli atleti, i ragazzi, le ragazze. Fatemi dire, io sono andato stanotte al nuoto, stanotte qua in Brasile, no? Sì. Guardate che stanotte qua in Italia, stanotte qua in Italia, da voi era sera. Sì, però cioè, le finali sono cominciate che qui erano le 22 passate e a l'una di notte eravamo ancora lì, ora brasiliana, mentre voi facevate il caffè. Facciamo colazione. Guardate che questo bronzo di Gabriele Detti è una cosa meravigliosa. Aspetta che lo chiediamo anche a Fabio Scozzoli. Fabio. Ciao, buon pomeriggio. Io chiedo un attimo di pazienza ad Andrea da Bergamo, che ci sta aspettando praticamente dalle Olimpiadi di Londra. Andrea, sei lì? Sì, sono qua. Abbi pazienza, poi arriviamo. Fabio, è un grande bronzo, ha ragione Leo Turrini. Ha ragione la grande, sì. È stata veramente una bella gara. Lui quest'anno ha fatto una grande crescita, ha dimostrato tutto il suo talento e sapeva benissimo, come ha dichiarato più volte, di potersela giocare e così è stato. Sì, anche se ci ha fatto prendere Leo un discreto spavento, mentre facevamo colazione noi con quei primi 200 metri piano piano, quasi per non disturbare, e poi la rimonta. Comunque per gli addetti al settore, comunque se conoscete Gabriele gestisce le gare in questo modo, ha uno sprint finale che veramente pochi hanno come lui. Questo nei 1500, ma anche a velocità da 400, quindi diciamo che sicuramente è stato un finale un po' al cardiopalma, però diciamo che io personalmente un po' me l'ho aspettato. Leo? Anche tu, Leo? No, beh, io non sono un esperto come Gabriele, che saluto. Onestamente non me l'aspettavo per niente, perché ci capisco poco. Poi però mi hanno spiegato che il Moro, che sarebbe il grande Morini, che è il coach di Gabriele ed è anche suo zio, aveva studiato col ragazzo una strategia che prevedeva appunto una partenza non fiammante. In pratica gli ha detto: tu lascia stare Orton, l'australiano, non ti preoccupare, no? E vedi di uscire in progressione e di sparare tutto quello che hai gli ultimi 150 metri. Devo dirvi che l'ultima vasca è stata veramente coinvolgente, perché si vedeva questo ragazzo qua, ci sarebbe voluto Virzì, che è di Livorno, hai capito, il regista, perché questa è una storia di amore, d'amicizia, di sentimenti, lo zio che è allenatore, lui che da bambino aveva avuto un grosso problema con una gamba perché era rimasta bloccata in un pontile, i genitori lo hanno aiutato tantissimo, ha portato uno spessore, l'anno scorso che era già molto competitivo non ha potuto partecipare al mondiale in Russia a causa una infezione alle vie urinarie, si allena sempre col suo fratello, chiamiamolo così, Greg Paltrinieri, no? Fanno questa vita a Ostia, che questi nuotano non so quante migliaia di chilometri all'anno perché sono sempre in vasca, no? E poi arriva qui, i 400 stile libero sono una delle cose più belle che ci sia da seguire nel nuoto, e ti fa questa cosa straordinaria e alla fine dice non è finita qui, perché sui 1500 vedrete che io e Greg... Devo dirvi un'altra roba però, ho rivisto il cinese misterioso, questo Sun Yang, sapete quello che a Kazan improvvisamente andò alla toilette quando stava per partire la finale del 2005. Sì. Allora qua è tornato, ieri sera ha preso l'argento, questo maledetto, e non sta nuotando male, per cui penso che la gara su un chilometro e mezzo con Betti, Paltrinieri, ancora il cinese, altra se gente non va, se non va di nuovo al bagno può dar fastidio, no, sarà comunque una delle gare più belle di questa Olimpiade, perché da quello che stiamo capendo ce ne sono 4 o 5 addirittura che possono vincere la medaglia d'oro, non solo i nostri due azzurri. Fabio, però Paltrinieri, adesso è vero che un amico scrive: ma quale medaglia sicura? Di sicuro c'è solo la morte. Vabbè, e noi sottoscriviamo 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6 e mandiamo tragedy però, dei DG's. Però Paltrinieri è la nostra stella, al di là della suggestione della Pellegrini. Sicuramente è una garanzia, secondo me, Greg, perché diciamo negli ultimi anni ha avuto una crescita costante e ha sempre dato quello che aveva nel momento giusto, e questo è importante per un campione, quindi è quello che fa la differenza. Lui sicuramente arriva con essendo il favorito, però io non ho dubbi che riuscirà a dare il meglio di sé, e se vale l'oro prenderà l'oro, se vale l'argento prende l'argento, se vale il bronzo prende il bronzo. Quindi... Sì, non è uno che si perde in acqua. No, assolutamente no. Neanche uno che sente tanto la pressione, perché di pressione ne ha addosso molta, perché siamo, tutti stiamo dicendo queste cose. Anche l'anno scorso. Cioè, se ci pensate, l'anno scorso più pressione di quella che ha avuto quando è salito sul blocco e non c'era quell'altro di fianco, lui poteva solo perderla lui. Più pressione di quella non ce l'ave, non può averla. Beh, intanto la pressione di non aver ancora medaglie, cosa che credo nel 2012, quattro anni fa, vi condizionò parecchio. Tu in quell'Olimpiade c'eri, Olimpiade chiusa con, a quota zero per il nuoto azzurro, ce la siamo tolta dalle spalle. Conta o è una leggenda? Cioè, voi nel 2012 prendeste zero medaglie semplicemente perché non eravate pronti per prenderle. Esattamente. Guarda, io personalmente credo che ogni nuotatore pensi per sé. È uno sport individuale, noi scendiamo in vasca. Io avevo la gara il secondo giorno, primo secondo giorno, che c'è Tarana, mi giocavo le medaglie, però evidentemente in quel momento non ero al top e non l'ho presa. Però io pensavo a me, ognuno pensa a se stesso, si prepara per i suoi 100 metri, 400 metri, 1500 che siano, e dà il meglio in, quella, in quel minuto, due minuti o quattro minuti che sono. E quindi il risultato di squadra viene fuori dopo, viene fuori alla fine, come anche nella staffetta. Quindi sono tutte leggende quelle che la medaglia aiuta poi a conquistare altre medaglie. Conquistare altre medaglie, ma le medaglie degli altri no. Anzi, sì, magari mettono addosso un po' di pressione. tra compagni, Fabio, cosa che insomma, è anche giusta e legittima. Grazie Fabio. Esatto. Ciao. Grazie ciao. Fabio Scozzoli che torniamo a disturbare. Noi siamo tutti i giorni in onda con tutti convocati alle Olimpiadi dalle 18 alle 20. Hai capito, Hai capito, le Leo? Le tue medaglie aiutano, quelle degli altri meno. Sono sempre su questo bus che se perdeu, ma comincio a intravedere il parco olimpico. Forse ce la faremo, anche perché oggi, guardate, mi stavo dimenticando. Pare che a vedere la gara... C'è la gara della cagnotta e della tre, no? Sì. Trampolino. Allora vi faccio una domanda: cosa si fa quando si è sul trampolino? Gli atleti cosa fanno? Cosa sul fa? Trampolino, ditemelo. Guardano sotto, no. Si tuffano, no, che devono saltellano, no? Saltellano. Non, non si vede che c'è dong dong. Esatto, dong dong ha promesso di venire. Dong dong, io sono entusiasta perché sapete che le cinesi e i tuffi sono formidabili. Quindi finalmente spero di coronare questo sogno. Domani, se fosse possibile, vorrei anche portarlo al telefono di tutti i convocati alle Olimpiadi. Come no? Dong dong, perché voi continuate a irridermi. Leo, a qualsiasi ora, a qualsiasi ora, sì, certo, ce l'hai, iniziamo. Non dormo stanotte al pensiero. Ragazzi, lo speciale del New York Times, le 10 star delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, c'è Dong Dong. C'è Io Dong non Dong. Capisco perché. Ma perché anche al New York Times hanno il senso dell'umorismo, Leo. Dovevo imbattermi in due come voi che non mi prendono sul serio. Vediamo se ti prende sul serio Andrea da Bergamo. Andrea. Ciao a tutti, ciao, grazie per aver atteso. Non vi sto aspettando dal 2012, sì. ma dal 1980, che sono state le prime Olimpiadi che a 10 anni ho visto. Perché sono un partito delle Olimpiadi, uno di quelli che si fa le settimane olimpiche. Quindi tipo stai ferie, seguendo anche Avola Jopic. Esatto. 9 a 6 per Avola. 9 a 6, esatto. E per quanto riguarda la giornata di ieri, ad un certo punto ho pensato, non è che ci va, scusate la parola, di sfiga oggi, cade Nibali, c'era... poi la ragazza che ha vinto la spada, che si è sempre qualificata in rimonta, sì. Anche la semifinale l'ha fatta all'ultima stoccata. Quindi anche quando lei dice che effettivamente è una medaglia persa, sì, è una medaglia persa per come è andata la finale, ma come per poi come è andata la semifinale e tutto, diciamo che è una medaglia guadagnata. Sì, assolutamente. Certo che quando sei lì, 11-7, nella finale, la stai dominando. Lei mi aveva detto, cioè probabilmente il suo errore è stato quello che ha detto, mi mancano, mentre quando sei sotto non ci pensi, quando sei sopra e dici me ne mancano solo quattro, probabilmente lì è stata la fine, perché dice me ne mancano quattro e sei lì che dici magari tre, magari due e, sì. Insomma. E intanto gli altri piazzano le botte. Esatto. Grazie Andrea. Solo un flash. Settimana scorsa chiedevate i momenti olimpici, io me ne ricordo due. Sì. Volevo ricordarne due: la vittoria della Simeoni a Mosca nell'80, quando si alzò con le sue braccia al cielo e la sua capigliatura con il sorriso suo solito di quando saltava e passava la sticella, e nel 2000 la idem nel K1, quando già su di età aveva vinto la medaglia d'oro. Però se gli dici già su di età, Iose fa idem, ti si mangia in testa. In testa. Grazie Andrea, c'è il traffico, torniamo subito. No, no, non ho nemmeno parole per descriverlo al momento. È successo, bene. Tutti convocati. Tutti convocati. In diretta madre, oh sì, è andata bene, sì. Che bello è quando c'è tanta gente e la musica ti fa star bene. Sì, vabbè, sì. Sì, mamma che mi conosce. Mamma, c'ho 72 persone davanti. Non mi posso sbilanciare più di tanto sui commenti. Tutti col microfono, tra l'altro, eh? Grazie mamma, lo volevo. Lascia fare, dopo lo dico, dai. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Sì, ora però scappo perché sennò c'ho anche l'antidoping e se no mi squalifica nella medaglia. C'è anche la cerimonia. C'ho anche la cerimonia. Sì, ho capito. Che guarda la cerimonia. No, mi passi babbo. Sì, cioè. Va bene. Vabbè, dai, vado. Sì, scappo. Sì, vi chiamo dopo, sì. Ciao. Sì. Adesso devi dirci cosa ti hanno detto, però. Bravo. 20 minuti. Ci chiamiamo dopo e ci parlo dopo. Ancora non. Aiuta, c'è troppa gente davanti, non mi posso sbilanciare, poi mi emoziono. Avola 10-8 su Jopic. Siamo negli ottavi di finale. Fioretto maschile individuale. Leo Turrini. Sì, ma una cosa così. Questa è la cosa più bella di tutta l'Olimpiade. Forse di tutti i tempi olimpici, compreso da St. Louis, Louis a oggi. Questa non l'avevi mai Gabriele vista neanche tu. Detti al Leo. Telefono con la mamma che salta l'intervista, perché poi alla fine l'intervista non l'ha fatta, è andato all'antidoping. E la mamma che dice. Credo di aver capito Leo che gli dice di grazie mamma, lui sì stai tranquilla adesso lo fa. Ho 70 persone davanti tutti col microfono. L'impressione è stata quella che la mamma da casa lo sollecitasse a ringraziare pubblicamente la famiglia. Beh, quello che io dicevamo prima quando io ho sostenuto che ci sarebbe voluto Virzì, no? Il regista che è di Livorno, che è bravissimo nel descrivere cinematograficamente queste storie di famiglia, no? Questi intrecci di sentimenti, passioni, perché poi alla fine della fiera un'Olimpiade, soprattutto da un punto di vista italiano, è anche questo, perché noi dov'è che siamo protagonisti ai giochi? Discipline che di solito non sono popolarissime, no? Che non sono straordinariamente, e sono quegli sport nei quali uno, se riesce ad arrivare, lo deve quasi sempre anche la tenacia, l'incoraggiamento dell'ambiente privato che è più vicino, no? Quindi i genitori, quelli che ti supportano, che ti portano da bambino. Sono medaglie costruite in casa spesso, esatto, Rossella esatto. Fiammingo, vorrei, che non ha mai abbandonato la sua, ad esempio la sua scuola. Sì, ma io vorrei sapere chi ha costruito questo autista. Qui adesso siamo finiti nella foresta. Io non capisco. Sei nella foresta? A proposito, ti mando un elicottero, Leo. Se hai bisogno, ti mandiamo l'elicottero. A una favela. Purtroppo è che con me su questo pullman c'è un turco che dorme russando vigorosamente. E poi ci deve essere un filippino che, con rispetto parlando, come avrebbe detto Ferrero di Toir, non mi sembra lucidissimo. Io vorrei adesso tentare di farmi spiegare dall'autista, perché poi questo è il bus che dovrebbe andare al main press center, invece secondo me sta entrando al villaggio olimpico degli atleti, quindi questo se perde clamorosamente io non so, non intendo. Intanto 11-11 Avola Ioppic, non stacchiamo gli occhi dalla scherma. 800-24-0024, siamo qui fino alle 19, vi aspettiamo. Maurizio da Roma. Maurizio, pronto? Eccoci. Io volevo intervenire a quanto riguarda Nibali, no? Perché ho sentito dire quel signore di prima che stava scendendo troppo veloce in discesa, ma evidentemente per questione di prima non sa cosa significa il ciclismo, perché innanzitutto una gara in linea di un giorno, la tattica fino a quel momento che era riuscita, perché poi non è che uno le pensa e riescono, ieri l'hanno pensata ed è riuscita, perché nel ciclismo non è che uno pensa alla tattica e poi riesce, ieri ha riuscito tutto, perfetto, cioè come si può dire che a un professionista di rallentare, cioè a un'Olimpiade, ci ha provato, finita là, e non aveva paura di Maiga, secondo me, perché si può dire perché le Olimpiadi sono meravigliose, ad esempio noi qui stiamo, noi che notoriamente, Leo, no, pratichiamo la scherma, stiamo dibattendo su perché Avola sia sotto 12-11 e non riesca a piazzare quella stoccata che ci sembra facilissima da fare. Io pratico ciclismo a livello amatoriale e posso dire che il ciclismo, come tutti gli sport, ma soprattutto il ciclismo, è uno sport di sensazioni. In quel momento era tutto perfetto, cioè le sensazioni stavano a 2000, cioè se vedete che doveva rallentare, purtroppo doveva fare quello che ha fatto, ma l'ha spiegato bene, possibilmente non aveva paura. De Maiga io non c'avevo paura manco io, perché Maiga scoppia sempre, è uno che fa le paia, infatti poi hanno ripetuto, c'avevano paura del belga che stava tornando da dietro, che secondo me l'avrebbero ripreso e che poi ha vinto. Aspetta. Attenzione, Paola Morini, signora Paola Morini. Buonasera. È la mamma di Gabriele Detti? Sono la mamma di Gabriele, sì, esatto. Allora, Leo. Sì. Hai sentito che carambata? Abbiamo chiamato al volo la mamma di Gabriele Detti. Allora, abbiamo 4 minuti. Aspetta. Abbiamo 4 minuti, perché poi il GR ci taglia qui. Signora, ci dice che cosa stava dicendo a suo figlio questa notte? Se quanti gliel'hanno già chiesto. Questa è la domanda ricorrente. Gli abbiamo fatto i complimenti, semplicemente complimenti. Poi lui ha detto, non mi posso dilungare perché ci sono 72 persone davanti. Gli ho detto, ok Gabriele, allora ci sentiamo proprio avanti. Ma com'è che a un certo punto dice, sì, grazie mamma, adesso lo dico, lascia fare a me. E tutti hanno pensato, la mamma ha detto, devi dire grazie mamma. No, perché mi aveva detto grazie di cuore mamma, è stato così, e poi dopo l'ha ripetuto, probabilmente avete preso soltanto una piccola parte della telefonata. Siamo un po' maliziosi noi. Sì, molto maliziosi. oltre che divertiti e orgogliosi, come credo, insomma, immagino, ma sicuramente voi tutti. Certo, siamo molto molto orgogliosi. Ma se l'aspettava o è stato un regalo? Signora, si è appena iniziato. No, ora diciamo che il grande traguardo l'aveva già raggiunto entrando la finale. Poi ci speravamo, certo, perché dal quinto al terzo posto era tutto possibile. Ce l'ha fatta, siamo molto molto fieri di lui, perché ha tirato fuori un carattere esagerato. Leo, ti lascio la signora Paola. Vabbè, io volevo dire alla signora, credo a nome di tutti, grazie, perché sono le mamme d'Italia, il vero supporto del nostro movimento olimpico. Io non mi riconosco affatto in questi tromboni del CIO, del CONI, delle federazioni. Alla base del movimento olimpico italiano ci sono le mamme come la signora Paola. Quindi grazie, perché se non ci fosse state voi e non ci foste voi, noi questi momenti dovuti ai vostri figli e alle vostre figlie non li avremmo mai vissuti. Quindi io farei la signora presidente della Federnuoto, credo che sarebbe perfettamente grato. Ora non esageriamo. Signora, essendo anche parente, appunto sorella, credo, del Moro, no? Di Morini, Quindi lei ha anche una competenza specifica, io la vorrei alla poltronissima della Fitz. possiamo sempre avanziamo la candidatura. Non esageriamo, sto bene dove sono. Cominciamo a far partire il comitato elettorale. Senta, abbiamo meno di un minuto, ma ci racconta come ha vissuto la notte? Cioè, è arrivata insomma fino alle 4 e passa, sveglia. No. Allora, tranquillamente ho dormito e ho messo la sveglia alle 3. Io e mio marito ci siamo fatti il caffè e serenamente ci siamo messi a guardare queste finali. Poi, dopo, abbiamo festeggiato con tutti i nostri amici che abitano qua vicino a noi, però la gara ce la siamo visti da soli in salotto di casa nostra. Come è giusto che sia. Grazie sì. Signora Paola. Grazie. Grazie. Buonasera. La mamma di Gabriele buonasera. Detti. Io ringrazio Giovanni Melchiori, è straordinario. Leo, ti saluto. Bene ragazzi, sono lieto di aver scoperto che lavorate anche di domenica. Vi dico che questo, se per Deu siamo passati al Villaggio Olimpico di Atleti, stiamo tornando indietro. Speriamo prima di sera non arriverai di raggiungere Tania Cagliottera dalla cosa volete che vedo addirittura delle paludi, sono esterrefatte. Attento ai coccodrilli, se hai bisogno di aiuto ti mandiamo l'elicottero di Radio 24 immediatamente. Sì, assolutamente. Noi ti convochiamo già per domani dalle 18 alle 20, tradizionale appuntamento con le Olimpiadi, e per domenica prossima, segnatelo, perché lavoriamo anche domenica prossima, come tutte le domeniche dell'anno. Ciao Leo. Ciao, buon lavoro ragazzi, a presto. Grazie a Leo Turrini, tanto Avola ce la sta facendo penare, eh. L'ultima mamma stoccata mia, è 14-13 contro il tedesco Jopik negli ottavi di finale del torneo individuale di fioretto maschile. Due secondi, mamma mia, ancora c'è il GR. Dai, vediamo il risultato in diretta dopo. 800 24 00 24, torniamo. Qui si fa fatica ragazzi. Tutti convocati. Pronto? Pronto Filippo? Dove caspita stai? Fa caldo, mi stavo riposando. Riposando? Vieni subito a Radio 24 che devi fare i fuori posto. Più siamo e meglio è. Ah, dici? Filippo, stai senza pensieri. Questo non è un consiglio, è un ordine, capito? Vabbè Umberto, però non ti incazzare. Muovete. Stupiezze. I fuori posto con Umberto Alezio e Filippo Roma, da lunedì a venerdì alle 10 su Radio 24. Tutti convocati. We are going to sign one more player, that's for sure. I don't want to speak about Paul because he's a Juventus player and I don't like other managers to speak about my players, I don't speak about their players, but the reality is that we are going to sign one more player. The market closes, as you know, 31st of August, so we have plenty of time to do that, but obviously I would like to do it before the Premier League starts. Giustamente Mourinho dice non parlo di Pogba perché è un giocatore della Juventus. Io infatti Pogba l'ho convocato insieme a Evra per domani sera e quindi lunedì allenamento qui a Vinovo. Quindi parlare di eventuali sostituti al momento di Pogba non ha senso, perché al momento Pogba è un giocatore della Juventus. E invece oggi abbiamo capito. Noi l'avevamo capito anche un po', però c'è un amico che ha scritto: ma come oggi non parlate di Pogba? Fra poche ore attesa la firma, fra poche ore carissimi attesa la firma di Paul Pogba con il Manchester United, perché due ore fa il Manchester United ha ufficializzato di aver ottenuto il permesso dalla Juventus di fare le visite mediche a Paul Pogba, che è già a Manchester, e quindi è tutto chiaro anche a Mino Raiola, che aveva definito pappagalli giornalisti italiani, inglesi, che scrivevano da settimane che Pogba sarebbe finito al Manchester. 800 24 00 24, apriamo una parentesi dedicata al calcio. Oggi ha giocato la Juventus, ha vinto 3-2 a Londra contro il West Ham e si è visto un Higuain in carne, cioè con un po' di pancetta, non pienamente in forma, anche se io lo dico, lui non ha mai avuto degli addominali da bodybuilder, scultore. No, però c'è questa foto che ormai è virale sui social, con un Higuain al quale o ha andato una maglietta troppo stretta, oppure insomma bisogna che ritorni alla dieta dei frutti di mare, perché magari ne ha bisogno. Sì. Un principio di pancetta si vede. Io propendo per il fatto che lui non abbia mai avuto un fisico scolpito. È un po' così tante volte a Napoli, al di là del chiattone che gli aveva riservato De Laurentiis. Era parso fuori forma e poi insomma è stato il giocatore che è stato. Intanto Avola ha vinto il suo assalto 15-13, quindi entra nei quarti di finale e ora c'è Garozzo in pedana che è sotto 5-3 contro l'egiziano Abuel Kassem, ma continueremo a seguirlo. Dicevamo, la Juventus ha vinto 3-2, Dybala, Mandzukic, poi doppietta di Carroll e gol di Zaza. Pogba andrà al Manchester United, che è in campo in questo momento a Wembley contro Leicester per il Community Shield, e sta vincendo 1-0, gol di Lingard, quindi sta vincendo in questo momento il Manchester United. E allora noi tentiamo un collegamento eccezionale con Emanuele Corazzi direttamente da bordo campo Fox Sport. Ciao Emanuele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Sta vincendo 1-0 il Manchester. Mourinho si sta prendendo la rivincita su Ranieri. Sì, sta vincendo il Manchester United. Tra l'altro Mourinho ha fatto un'esultanza uguale a quello del Camp Nou, con il dito verso la curva al momento del gol, e poi sono arrivati i primi fuori inizialmente, poi un po' più convinti a parte di così del Manchester United nei confronti dello Special One, che continua a seguire la partita in questo momento. Sono in piedi da lui e Ranieri. Mourinho ha la giacca anche... durante il primo tempo era così, dice Ranieri, sempre in camicia, tra l'altro batteva il sole contro di lui nel primo tempo, però non ha mai mollato in istanti sui giocatori, perché da bordo campo c'è sempre questa sensazione che Ranieri sia quasi l'uomo che guida la sua difesa, l'uomo che guida ogni movimento. E l'Ester comunque ha giocato un discreto primo tempo, ha colpito una traversa con Okazaki, lui voleva vedere la sua squadra, e a mio avviso la sua squadra c'è stata, perché ha giocato con grande senso del collettivo. Poi è arrivato quel lampo di Lingard, fenomenale, una giocata clamorosa. Mi hanno segnalato, perché io non lo sento, che Capello ha detto è arrivato proprio nel punto nel quale lo scorpano c'era Kanté. Sì, sì, sì. Capello che la sta commentando su Fox Sport. Attenzione, perché Mahrez scarica per Musa. Guardi, lei sta attaccando, tutto quel tipo di telecronaca. Insomma, è rientrato lo United, però sta palleggiando bene in questo momento all'Ester. Scusate, dicevate? No, dicevamo che tra una stoccata e l'altra abbiamo anche visto Ibrahimovic con la maglia del Manchester United. Come si sta comportando? Il Manchester United sta giocando più, cercando di alzare il pallone per Fellaini, per Ibrahimovic. Finora un Ibra non particolarmente brillante, chiuso da Morgan e Hut. L'Ibrahimovic sta più facendo la differenza con i giocatori veloci. Marcial ha puntato un paio di volte Simpson, Lingard ha avuto la sua velocità, messo in difficoltà gli altri. Ibra sta giocando molto al servizio della squadra, comunque esce da per il intanto il cross è proprio per lui in questo momento. Valencia l'ha messo in mezzo, ma non sarà lontano. Sì, Ibra che gioca per la squadra, finché non lo vediamo non ci crediamo. Grazie Emanuele, buona partita. Ciao, ciao, buona partita. Straordinario, tutto in diretta, ha pareggiato Vardy per il Leicester 1-1, quindi per tutti i nemici di Mourinho si può esultare, per tutti gli amici di Ranieri anche, per gli altri manca ancora più di mezz'ora alla fine della partita. Grazie Emanuele Corazzi, partita. Grazie. Su Fox Sports. Hai visto? Beh, che i nostri ascoltatori, siamo, cari amici ascoltatori, prima la mamma di Gabriele Detti, siamo al top, poi eh? Il gol di Vardy direttamente da bordo campo tra le due panchine di Wembley. 8-0-0-24-0-0-24. Intanto Garozzo che sta rimontando sull'egiziano Abul Kassem, 7-6 per l'egiziano, ma piano piano, eccola qui, 7-7, piano piano, è una grande giornata questa. Qualche notizia di calciomercato, poi parliamo dei cinesi. Vermaelen, che questa mattina è sbarcato a Roma, visite mediche, contratto di 3 anni a 3 milioni di euro con la Roma, formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Spalletti aveva bisogno di un giocatore pronto, bel giocatore per la sfida contro il Porto del preliminare di Champions League. Bel giocatore, che però negli ultimi 2 anni ha giocato pochissimo, appunto, è più fresco, più riposato, non è consumato. No, ma al di là di questo, comunque sappiamo dove che non poteva là dove era trovare molto spazio. secondo me rimane comunque un bel giocatore nazionale belga, un giocatore appunto pronto per l'uso, è quello di cui Spalletti aveva bisogno. Poi l'Inter che ha quest'idea di Luis Gustavo, ma in Francia scrivono anche che sarebbe su Nasri il Milan. Questa mattina c'è stato un incontro tra Galliani e l'entourage di Badeli, che ha un contratto fino al 2018 con la Fiorentina ma non vuole rinnovare, l'offerta sarebbe da 10 milioni di euro. In Spagna si scrive che potrebbe essere Isco il primo vero colpo dei cinesi. A proposito dei cinesi ne parliamo subito dopo il traffico. Napoli pronto all'ultimo assalto per Riccardi e poi Sansone ufficiale dal Sassuolo al Villarreal. Traffico, torniamo subito con Garozzo che sta combattendo, 9-7 di rimonta contro Abuelkassem, ottave di finale a Rio de Janeiro. Traffico. I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. Tutti convocati. Tutti convocati. Sfruttare il brand del Milan all'estero, soprattutto sui mercati asiatici. Il Milan, da una recente ricerca che ci pare ben fatta, ha più di 340 milioni di simpatizzanti in giro per il mondo, 240 milioni sono addirittura in Cina. Stiamo trattando con queste importanti società cinesi e concluderemo con l'obbligo, l'impegno da parte loro a versare ogni anno quello che serve al Milan per ritornare ad essere protagonista. My little China girl, wake up in the morning with smile. We need to find a partner from Asia, especially China. When Mr. Moratti meet me, for sure Mr. Moratti check a background too, who's this guy, right? The same thing, when I want to be a partner in China, I have to check who's this guy. And the one who know the link is Goldman, not me. Sono i rappresentanti di un grande gruppo cinese, sono amici del presidente Toir, sono venuti. I soldi vengono o dalla Cina o dal petrolio. Forza Inter, forza Suning, forza to the partnerships. Thank you. Oh, intanto io ringrazio Thomas che ci ha mandato un WhatsApp al 349-238-6666 con tanto di foto, quindi non c'è trucco e non c'è inganno. Anche qui nella redazione di BBC Sport a Manchester, in attesa di iniziare il turno olimpico di notte, si ascolta tutti i convocati. Grande. Ringraziamo Thomas. Matteo Marani, vice direttore di Sky, ciao. Ciao, buon pomeriggio. Hai capito, anche la BBC. Eh beh, diamo notizie, dall'altra parte abbiamo dato anche il gol di Vardy praticamente da bordo campo a Wembley. Oggi ci dice, onestamente ci dice bene. Onestamente ci dice bene, anche a Garozzo, dice bene. Matteo, che ne pensi del primo derby tutto cinese, il primo derby di Milano, 20 novembre, dovrebbe anche essere fatto il closing forse, sperando che non succeda nulla. Dal punto di vista societario ovviamente è la maggiore novità della stagione, insomma contemporaneamente, questo è abbastanza curioso, contemporaneamente a distanza di poche settimane, di pochi mesi, Inter e Milan passano in proprietà cinesi. Io credo che tra l'altro la scelta dell'Inter ha accelerato probabilmente anche dall'altra parte poi quella del Milan, e non c'è dubbio che in questo momento i cinesi abbiano un grande interesse per il calcio, in particolare italiano, e in generale i cinesi l'hanno per l'Italia. Guardavo un po' di dati in Europa, il paese in cui stanno investendo di più è il nostro paese, quindi diciamo, questo rispecchia, il calcio rispecchia un po' quello che è una tendenza anche nel resto del mercato. Sì, noi abbiamo perso le altre ondate, quella russa, quella degli sceicchi, dei petrolieri arabi, e forse abbiamo incrociato questa cinese, posto che la verità è che non esiste un precedente, cioè nessuno sa come si comportano proprietari cinesi con il 100% di grandi club, perché Inter e Milan sono i primi due casi. Sì, è un cambiamento, esatto, epocale, no? Si passa da ovviamente da Moratti Berlusconi ha due proprietà cinesi con una curiosa coincidenza temporale, come facevi notare Matteo, è chiaro che insomma Moratti e Berlusconi hanno segnato un'epoca. Io non so se i cinesi abbiano tanta voglia di aprire un'altra epoca. Loro sono qui per fare affari, per fare soldi, e quando non converrà più, allora lì si dovranno fare i conti, no? Secondo me è chiaro, in questo momento sembra un orizzonte lontano. Però mentre Moratti e Berlusconi erano sostenuti da altre passioni, da altri interessi, da altri sentimenti, questi sono sostenuti dal denaro. Matteo? Ah, io penso che, come dicevo prima, in questo momento per i cinesi sia un'opportunità per entrare in un mercato che a loro interessa molto, che è quello del calcio. Nel piano quinquennale del governo cinese è chiaramente scritto che bisogna accrescere il numero di praticanti di calcio, e quindi è proprio nel piano, diciamo, del governo. Stato lo hanno l'obiettivo di avere i mondiali del 2030, quindi su questo puntano tantissimo in Cina. Si sono resi conto che il calcio è il grande veicolo nella lotta che si crea a livello internazionale, anche da un punto di vista di immagine. Quindi la Cina, che ha bisogno, questo famoso termine soft power, cioè di vincere un po' questa gara anche dal punto di vista dell'immagine, si rende conto che il calcio può essere la strada, la pista per arrivare ad avere anche, come dire, visibilità internazionale. Non a caso la stessa Super League cinese nell'ultimo mercato ha investito più della Premier. Quindi ci sono grandissimi soldi, grandissimi capitali. Io però dico anche una cosa: è vero che finisce l'epoca di Moratti e Berlusconi, ai quali non si può che essere grati, visto quello che hanno investito e quello che hanno portato in termini di risultati a Milano. Insomma, parliamo delle due famiglie, insieme hanno collezionato, credo, 8 Coppe dei Campioni, seguendo le varie dinastie. Però è vero anche che il loro modello da un po' di anni non era più competitivo. Cioè, io mi auguro che i capitali stranieri, cinesi, arabi, quelli che saranno anche in futuro americani, nordamericani, serviranno anche un po' per dare un'accelerata al nostro sistema, per farlo tornare a essere competitivo, quindi impiantistica, sviluppo, commercio, marketing, cioè tutto quello che ahimè i nostri club non hanno fatto in questi anni. Il modello di imprenditoria italiana, il famoso mecenate che teneva i soldi, sì, non reggeva più. Che vinceva, non reggeva più. Non reggeva. Ma ti sono piaciuti i primi 40 giorni di Suning? Ma faccio fatica a dare un giudizio, nel senso che in questo momento credo che Suning, ecco, l'unica cosa che è chiara è che quando i cinesi arrivano non fanno rivoluzioni. Tra l'altro mi risulta che all'Inter abbiano preso esattamente il piano precedente di Tuir e abbiano portato avanti quello. Quindi non fanno rivoluzioni, facendo una battuta copiano, battuta non eccezionale, me ne rendo conto, però abbastanza come da tradizione, cioè non sono abituati a ribaltare immediatamente quello che è l'andamento. Giustamente, però ad esempio i cinesi del Milan partano subito mettendosi in mano a un nuovo dirigente che è Fassone. Matteo? Ah sì, Fassone credo che sia un elemento, diciamo, di per loro italiano, serviva un elemento italiano per avere un collegamento con la realtà nostra. Probabilmente all'Inter già c'era, insomma, c'era sicuro di capire, c'erano altre figure e su quelle si è fatto riferimento. Poi credo che i cinesi col tempo sul fronte Inter probabilmente magari qualcosa faranno, anche prenderanno la loro strategia, le loro idee, però credo che questo sia giusto, cioè arrivare e non fare rivoluzioni, stravolgimenti, secondo me non è sbagliato. Per esempio Tohir, io credo che tutto l'innesto che abbia fatto i dirigenti stranieri non sia servito tanto e non gli abbia portato tanto neanche favore, perché alla fine non c'era nessuno che conoscesse il nostro calcio, c'erano problemi di lingua, purtroppo arrivano in un paese in cui l'inglese viene parlato poco e lui aveva tutti i dirigenti di madrelingua inglese. Quindi questo, per esempio, secondo me è stato un problema per Tohir. Io credo che i cinesi avranno le loro idee, porteranno con calma i loro uomini a fianco a quelli italiani e poi vediamo, perché Suning, se parliamo di Suning, noi parliamo di una realtà enorme, cioè Suning è leader e per domestici in Cina, cioè non è leader in un mercato minore, quindi parliamo di un'azienda enorme, sviluppata anche questa in pochi anni, uno di questi casi di aziende cinesi che sono cresciute esponenzialmente, però a grandissime potenzialità. Mi sembra invece molto intelligente l'idea dei nuovi proprietari del Milan di eleggere, di nominare, di scegliere comunque una persona come Fassone, che conosce perfettamente la realtà del calcio italiano, e di consegnargli in mano le chiavi del Milan. Poi vedremo quale sarà il ruolo di Galliani, vedremo un sacco di cose. è forse quello che l'idea che fino adesso è mancata ai nuovi proprietari dell'Inter, Matteo. Io su Fasone sono d'accordo, credo che sia un dirigente insomma di sicura affidabilità, e su questo si è trattato, insomma, esperienze in varie piazze, ha visto anche varie prospettive delle società, quindi si è partiti da questo per avere un loro uomo. In questo caso era anche un po' diversa la situazione fra Inter e Milan, cioè è chiaro che nel Milan c'era la presenza di Galliani, che è un dirigente che non lo posso neanche affiancare a quelli dell'Inter dal punto di vista simbolico del significato della sua presenza all'interno del Milan, cioè Galliani è la storia del Milan insieme a Silvio Berlusconi, quindi sono, come dire, figure abbastanza diverse rispetto a quelle dell'Inter. Ti affascina l'idea di un ritorno di uno dei grandi? Si parla di Maldini, Albertini, Costa Curta, uno di questi nomi qui, o siamo alle solite suggestioni, peraltro già lette negli ultimi due anni? In genere quando si apre un nuovo fronte è chiaro che vengono fuori immediatamente quei nomi lì. Io credo che di questi che hai fatto, Maldini soprattutto, possa essere la suggestione più forte, perché quello che come caratteristica all'identità anche del grande dirigente, sappiamo che è sempre stato un po' così fuori dalla porta per incomprensione, definiamoli così, con Galliani. Può essere una suggestione, però secondo me i cinesi guarderanno molto all'aspetto del business, che è quello del cuore, il sentimento, delle bandiere, questa è la mia impressione, cioè guarderanno che le società rentano. I cinesi non vengono per buttare via soldi dalla finestra, vengono perché le società devono anche creare profitto, devono anche essere redditizie. Sì, devono avere un modello diverso da quello che dicevamo prima con Berlusconi e Moratti, non era più sostenibile. Per chiudere, io penso anche che serva uno sforzo immediato al di là dei tecnicismi di un passaggio da 740 milioni per dare qualcosa di più a Montella, perché mi rifiuto di pensare che un'operazione alla fine da 1 miliardo, investimenti compresi, possa partorire nell'immediato una caparra da 15 milioni di euro e costringere Montella, che mi sembra dignitoso nella costruzione del suo Milan in questa estate in mezzo a mille difficoltà evidenti per questo passaggio di società, possa consegnargli qualcosa che lo aiuti a costruire, Matteo, un Milan più vicino a quelle che sono le sue idee. No, sottoscrivo in pieno, perché non c'è dubbio che in questo momento il mercato del Milan sia molto in ritardo, e penso che lo stesso Montella sia stato, come dire, assicurato e garantito qualcosa in più. Lui molto bravo, molto anche discreto nel non chiedere, nel non volere rinforzi come fanno altri allenatori, però non c'è dubbio che bisogna aiutarlo, perché in questo momento il Milan mi sembra ampiamente in ritardo. Grazie Matteo. Ciao Matteo. Grazie, ciao. A voi. Ciao. Grazie Matteo Marani. Non li chiede perché non sa chi chiederli. Chi li domanda? A Berlusconi che ha venduto, ai cinesi che hanno comprato, magari li domanderà a Fassone. Difficile però pensare che, insomma, che verranno anticipati dei denari sul mercato, no Giovanni? Sì, però difficile anche rassegnarsi all'idea di una stagione che parte di fatto quasi senza mercato, perché questo è quello che succede al Milan, a meno che non riesca a partire Bacca. I 15 milioni sono già stati spesi tra la Padula e Gomez, sì. Altro non c'è, ma ne parlavamo prima. Milan ha bisogno di qualcosa che sia più simile all'idea di calcio di Montella, non a caso si cerca Bade lì, però serve qualche soldo per prenderlo, extra budget rispetto a quei 15 milioni di euro, ed è difficile pensare che un momento così complesso alla fine partorisca un mercato che quasi non accontenti, che quasi non accontenti Montella, si parla di Quadrado. A dubito. Vedremo. 800 24 00 24. Adesso andiamo in pubblicità, ci fermiamo un minuto, poi abbiamo tutto l'aggiornamento sulla scherma con una buona e una cattiva notizia. Tanto è partita anche la prova femminile su strada di ciclismo alle Olimpiadi, torneremo anche dal nostro Dario Ricci, ci proveremo ad allungare verso la serata di Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, di Jessica Rossi, del judo che promette delle medaglie. Stiamo insieme fino alle 19. 800 24 00 24, torniamo subito. Che non salta rossonero e tutti convocati. 4 magliette, 2 camicie, un vestito, 3 paia di scarpe e i libri. Cosa metto in valigia? Sono Alessandra Tedesco, la vostra cacciatrice di libri. In estate gli appuntamenti con i consigli di lettura si moltiplicano. Dal lunedì al venerdì alle 23.45, il sabato e la domenica alle 10 del mattino e la tradizionale puntata del sabato alle 6.30 e in replica alle 22. Vabbè, non ci avete capito niente, non avete preso appunti? Niente paura, trovate tutto su radio24.it. Elena, lo senti questo clima estivo? Il sole, il mare, la montagna, le città d'arte. Ma allora torna Globetrotter 24? Sì, Valeria, torniamo. E in una versione tutta rinnovata, con ospiti fissi e destinazioni interessanti e, speriamo, poco scontate. Non vuoi anticiparmi nient'altro? Posso solo dirti che i nostri compagni di viaggio sono Salvatore Carrubba e Davide Paolini. Allora dimmi almeno a che ora è l'appuntamento. Ogni sabato e ogni domenica alle 10.30, ovviamente, su Radio 24. Tutti convocati. Eravamo messi nelle condizioni migliori, purtroppo la sfortuna, insomma, quest'oggi ci è toccata e dai, vediamo lato positivo di aver onorato la maglia che portavamo e di aver dimostrato di essere un gran gruppo. La nostra prova è una prova per l'Italia storica, nel senso che la nostra staffetta era da Sydney 2000 che non riuscivo a ottenere una finale. Quindi esserci già e arrivare sesta addirittura è stato un risultato che per l'Italia fa ben sperare, soprattutto dice che questa staffetta ha un futuro e bisogna costruirla sempre meglio, quindi siamo molto contente. Mi auguro che ci sia maggiore attenzione da parte degli arbitri, perché un'Olimpiade così, visto il grande equilibrio, visto anche oggi Serbia, cosa, il primo, dopo un minuto uno è uscito fuori col sangue, visto il grande equilibrio, il grande interesse che c'è per questo podio, dove ci sono 10 squadre, come dicevo, che possono lottare, ogni partita è così. Noi galleggiamo, ci salviamo, gli altri magari con l'acqua ci hanno meno a che fare, no? A parte le battute, non lo so, qui tutti quanti vengono per vincere. Se le nostre punte arrivano preparati al momento giusto, con le motivazioni giuste le hanno, possono far bene. Alcune voci colte qua e là, dalle prime due giornate di Rio 2016, Dario Ricci. Ciao Dario. Ciao. Ciao Giovanni, vi saluto proprio questo istante dall'Arena Carioca 3, che è la palazzo dello sport della scherma. In questo istante proprio Garozzo ha conosciuto il suo rivale nei quarti di finale del torneo di Toretto maschile, sarà l'americano Massalas, che ha battuto 15-13 Ruxo Akhmaturov. Sono due gli azzurri nei quarti di finale, perché questo sarà il rivale Diavola, scusate, mentre Garozzo affronterà il brasiliano Toldo. Bellissima la prova di Garozzo negli ottavi, battuto all'egiziano Abdulkassem 15-13. Abdulkassem, che ricordiamo era argento, difendeva l'argento di Londra 2012, mentre Avola ha battuto sempre per 15-13 il forte tedesco Joppi, che è andata male, sconfitto sempre per 15-13 a Andrea Cassarà, superato dal britannico Kruse. Abbiamo quindi comunque due azzurri che continuano la corsa verso il podio, entrambi ai quarti di finale, mentre due sono i semifinalisti nell'Arena sul vicino, la Riga Carioca 2, che è praticamente attaccata a 30 metri, diciamo, del judo, con Odette Giuffrida tra le donne, che ha battuto la romena Cintola numero uno del seeding, e ora se la vedrà con la cinese Yin Yang, e in semifinale anche Fabio Basile nella categoria 66 kg, per lui la sfida con lo sloveno Gomboc. Sì, Fabio Basile, che sta davvero facendo un torneo straordinario. Saluto Margherita Granbassi. Ciao Margherita, buon pomeriggio, anzi buonasera. Ciao, buona serata a tutti. Avola e Garozzo, possiamo sperare in una serata in cui la fabbrica di medaglie della scherma ci regali qualcosa? Beh, noi ovviamente incrociamo tutti le dita, i ragazzi sono bravissimi, molto giovani e hanno fame di vincere quella medaglia. Tra l'altro mi pare che il canale di Garozzo non sia niente male, anche se ovviamente dovrà affrontare le difficoltà. No, non mi ricordo qual era dei due, avete appena detto che incontrerà il brasiliano, diciamo. Sì, Toldo, sì. Esatto, è un ottimo assalto per entrare in zona medaglia, però dobbiamo tenere conto del fattore tipo. Ovviamente è il tipo di casa e è un tipo incredibile, l'abbiamo sentito anche ieri mentre tirava l'italo-brasiliana Natalie Mulhausen, per cui bisogna stare un po' attenti a quello, a non farsi deconcentrare. Conta molto il fattore campo nella scherma, Margherita? Diciamo che conta, ma di solito a quei livelli lì tutti quanti siamo pronti a, diciamo, con la concentrazione a cercare di evitare di farci distrarre da queste cose, no? Ci sono quei momenti in cui è come se ti dovessi indossare una sorta di impermeabile, no? Sopra il quale deve scivolare tutto. Quindi diciamo che a quei livelli dovremmo essere pronti a sopportare anche questo. Sì. Mi sembra però che le prime due giornate, allargo poi il discorso anche a Dario Ricci, che sta seguendo tutto da Rio, ci abbiano detto che la scherma è entrata col piede giusto in pedana, Margherita, il che fa ben sperare. È vero che prima Fabio Scozzoli ci raccontava che le medaglie degli altri non contano nulla quando poi è arrivato il tuo turno, però è anche vero che se cominci a vedere che i tuoi compagni di spedizione ci sono arrivati, sono in condizione come magari pensavano di essere, e si sta creando il clima giusto, sicuramente questo aiuta. Beh, indubbiamente, significa che la preparazione è stata fatta bene. Ieri abbiamo visto una meravigliosa medaglia d'argento da parte di Rossella Fiammingo, che dopo una stagione, diciamo, sottotono rispetto ai suoi standard, ha vinto una medaglia importantissima, e per quanto qualcuno abbia così parlato di una delusione, io non credo che si possa parlare di delusione nel momento in cui si porta a casa una medaglia, la porta a casa una ragazza di 25 anni e soprattutto una ragazza che ha affrontato la gara in una maniera impeccabile, e devo farle i miei complimenti non soltanto per il risultato ma anche per il savoir-faire, il fair play con il quale poi ha accettato la sconfitta e ha accolto questa bellissima medaglia d'argento con il sorriso di sempre. Sì, la medaglia d'argento è una medaglia vinta, è chiaro, Margherita, esatto. Però non possiamo parlare di delusione noi, però possiamo concedere la delusione alla Fiammingo, perché la sua voce era chiaramente molto delusa, no? Dopo l'ultimo assalto. Ma ripeto, sicuramente a caldo uno è deluso, ha detto appunto di averla sempre battuta quell'atleta. Chiaramente ha vinto le ultime due edizioni dei campionati del mondo, però credo che Rossella abbia davanti a sé ancora una carriera lunghissima, e nonostante questo, a 25 anni, chiunque anche smettesse, diciamo, potrebbe ritenersi soddisfatto degli allori che ha il collo. Per cui è proprio, mi è piaciuta per questo, perché è stata molto molto lucida nel parlare di una delusione, ma di comunque accogliere una medaglia con dolcezza e con un bellissimo sorriso. Dario, oggi erano un po' cambiati gli occhi anche di chi sta intorno al mondo della scherma. Ci avevi raccontato prima, insomma, di un pizzico di delusione ieri con questa rimonta subita. Oggi mi auguro, credo, non lo so, raccontaci, passato tutto. Passerà nel momento in cui la medaglia sarà al collo, perché comunque tra l'essere in corsa e arrivare su quel podio c'è davvero una bella differenza, però le sensazioni e anche quello che stiamo vedendo in pedana, sappiamo che i fioristi vengono da una stagione fatta di strappi, alti e bassi, risultati e delusioni. Ecco, l'essere in forma nel momento più importante sicuramente rappresenta un punto di partenza importantissimo per tutta la spedizione. Direi che è il discorso che si può fare anche col nuoto, perché il bronzo di Betti di ieri veramente è propellente, carburante preziosissimo nel motore di tutto, come ricordate e come ha sottolineato poi ieri sera anche in zona mista nella notte italiana anche Federica Pellegrini, no? Insomma, si prende ispirazione, ci si contagia, ma più banalmente quando si va a mensa a mangiare ci scappa il sorriso in più, la battuta, lo zaino sembra un pochino più leggero, e tutto questo poi quando c'è in pedano sui blocchi di partenza, magari ce lo conferma Margherita, credo che dal punto di vista mentale aiuti parecchio. Margherita? Oggi parlavamo di delusioni, probabilmente chi sarà molto deluso oggi, e io sono veramente molto dispiaciuta per come si è andata la sua gara, Andrea Cassarà. Andrea è la sua quarta Olimpiade, è un campione eccezionale, ha vinto da giovanissimo la medaglia di bronzo individuale ad Atene nel 2004, poi è stato due volte campione olimpico a squadre, quindi veramente un grandissimo del fioretto maschile, e purtroppo oggi ha perso da poco nel tabellone dei 16 con un atleta fortissimo inglese, ma sicuramente Per Andrea, insomma, una medaglia era molto molto importante, era un obiettivo che si poteva raggiungere, per cui immagino che lui invece sia molto molto deluso. Sì, questa doveva essere in un certo senso la sua Olimpiade, era dei tre quello più atteso in questo torneo individuale. Quello più atteso, quello più conosciuto, era quello che forse stava affrontando l'Olimpiade della maturità. C'è da dire che anche al primo assalto Margherita ha fatto una fatica pazzesca, vincendo all'ultima stoccata, insomma, sì, parlavamo... Sì, ma i primi assalti possono essere sempre un po' una trappola, no? Sì, a volte immagino. Possono servire anche per, diciamo, smaltire un po' di tensione, però sì, evidentemente è partito, evidentemente sente molto questa gara e speriamo che si possa rifare in quella squadra. Prima di chiudere, è banale dirlo, ma vedendo come sta cominciando questa avventura olimpica la nostra scherma, peccato ancora per quella rotazione di tornei, di discipline che ci priva di due gare a squadre che oggettivamente profumavano di medaglie. Non dirlo a me, io sono stata protagonista della prima turnazione, per cui è toccato ad Ma come la prendete voi atleti? Ma malissimo, sì, no, malissimo. Sinceramente l'ho presa malissimo, anche perché è proprio quell'oro che mi manca, nel senso che nel 2004 ad Atene eravamo una squadra davvero incredibile, molto molto forti, tant'è che abbiamo vinto il campionato del mondo nello stesso anno, stiamo parlando di New York del 2004, e ovviamente c'è stata grandissima amarezza, era una squadra veramente forte, con Giovanna e Valentina nel pieno e nel massimo della loro potenza, e io comunque in crescita, e quindi ovviamente c'è grande amarezza. Io spero che questa cosa possa prima o poi cambiare, anche perché sinceramente non perde di valore chiaramente la medaglia che si vince, perché vale ovviamente lo stesso, però obiettivamente anche la gara individuale ne perde, perché soltanto due atlete per nazione possono partecipare in quel caso, e a parte ad Atene eravamo riusciti a partecipare in tre, eravamo riusciti ad andare io e Giovanna e Valentina, ci eravamo qualificate tutte e tre perché c'era un regolamento diverso, ma siamo stata l'unica nazione a portare tre atlete. Sì. Adesso le atlete sono due e sappiamo che ci sono alcune nazioni in cui la terza può essere una potenziale vincitrice di medaglia, per cui ovviamente un po' i valori in campo cambiano. Certo, turnazione, poi alle Olimpiadi ancora tra un po' mettono un nascondino. Certamente metteranno il surf, cos'è, l'arrampicata sportiva, lo skateboard, e poi mi tolgono fioretto a squadre. Non possiamo essere soddisfattissimi, No. Ecco, diciamo che probabilmente uno sport dovrebbe essere completo, soprattutto questa cosa della turnazione secondo me non ha un grandissimo senso, perché ho idea che crei anche un po' di dislivello e di cambiamento dei valori durante le stagioni agonistiche, proprio nelle specialità che alle Olimpiadi diciamo nel quadriennio successivo non ci saranno. Grazie Margherita. Grazie a alla voi. Prossima. Grazie a Margherita Granbassi. Grandissimo in bocca al lupo, approfitto di questa occasione per fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono impegnati nelle gare, in particolare i miei colleghi della scherma, forza. Ma se vuoi torneremo a disturbarti, così potrai anche rifarglielo l'in bocca al lupo. Grazie Margherita. Ciao. Va bene, ciao. Grazie Margherita Granbassi. Dario, ti giro una domanda, è arrivata via sms 349-238-6666, per noi patiti delle Olimpiadi da divano, a che ora ci sono le semifinali dei due judoka? Allora, alle 15:30 le semifinali del judo. 15:30 ora brasiliana, quindi 20:30. Certo, 20:30, mentre fa pochissimo dovrebbero iniziare i quarti della scherma del fioretto maschile, che prevede invece poi le semifinali alle vostre 21:30. Allora, resta lì che abbiamo ancora un quarto d'ora, vediamo cosa riusciamo a raccontare. 800 24 00 24. Tanto sta per finire il Community Shield, ancora 1-1 tra Manchester United e Leicester, con un gol di Ibra, ma forse annullato per fuorigioco. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. È un viaggio per gareggiare, spero. Io sono abbastanza in forma, nonostante l'ultimo periodo non è stato facile, però sto bene, sono in una condizione buona e sicuramente farò una bella figura se avrò la possibilità di andare in gara. Sono qua col mio allenatore, quindi non sono solo e ci ho messo tantissimo in questi anni a tornare, a riprendermi, a fare fatica giornalmente, quindi io son qua perché io voglio gareggiare, perché è giusto che io gareggio. Il CIO dice che è per gli atleti puliti e io sono un atleta pulito, quindi sono qua e voglio gareggiare e poi vincere. Questo Alex Vasser, questa mattina all'arrivo a Rio de Janeiro, all'aeroporto olimpico, domani è il giorno della verità. Ma nel giorno della verità abbiamo parlato in settimana con Sandro Donati e abbiamo già espresso i nostri dubbi, le nostre perplessità, il nostro pensiero. Non la vedo benissimo, purtroppo. Sì, anche se noi domani saremo qui a cercare a cogliere e a raccontare che cosa accadrà. Dario, c'è qualche reazione anche a livello istituzionale, sportivo, italiano, a Casa Italia, all'arrivo di Alex Vasser, che noi lo ricordiamo e questa è la cosa che ci colpisce di più, praticamente abbandonato a se stesso. Lui dice: sono qui con il mio allenatore, non sono solo, sono qui per gareggiare e possibilmente per vincere. La realtà però, mi pare, è che il mondo sportivo italiano l'abbia scaricato. Beh, direi che è una sensazione che ti confermo, mentre intanto qui, come sentite dal rumore in sottofondo, sulla pedana dell'Arena Carioca 3 stanno entrando proprio in pedana i protagonisti dei quarti di finale del fioretto maschile, con Carozzo che è proprio qui sotto i nostri occhi, già in pedana con Toldo, sta per iniziare col brasiliano Toldo, quindi potete immaginare che tifo ci sarà. E Massaglia, l'americano, che è pronto a sfidare il nostro Avola. Tornando alla domanda, beh sì, direi proprio che reazioni ufficiali non ve ne sono, e la sensazione che avete dall'Italia è confermata qui in loco. Quello di Sasser sembra essere il percorso di un atleta, è un uomo in questo momento solo, aggrappato al suo piccolo gruppo di lavoro, con Sandro Donati in testa, e effettivamente è un silenzio che lascia perplessi, soprattutto se si pensa a quello che potrebbe essere un verdetto che dovesse di ammettere Alex Vasser alle gare. Improbabile, improbabilissimo, ma se accadesse... Allora, sì, difficile, però ad esempio il CIO ha riammesso tantissimi russi che in questa Olimpiade si era detto non dovevano poter partecipare e che invece troveremo al via delle rispettive gare, e anche qui insomma qualche domanda sarebbe il caso di porsela. Un po' di casino è stato fatto da questo punto di vista, quindi questo magari può giustificare una brezza di ottimismo. La continuo a vederla in maniera complicata, però sappiamo bene come queste Olimpiadi siano state accompagnate dalle polemiche russe, siano state accompagnate da rimozioni, eccezioni contro eccezioni e contro regole, quindi non è tutto poi così chiaro. Anche atleti russi che sono stati fatti salire sull'aereo un minuto prima della gara, Giovanni. Sì, assolutamente. Oh, intanto confermo, il Manchester è avanti 2-1 nel Community Shield contro Leicester. È il primo gol con la maglia del Manchester, numero 9, di Zlatan Ibrahimovic, di testa. Un gol in fuorigioco. Era in fuorigioco, anche insomma abbastanza evidente. Torniamo da Dario Ricci a Rio de Janeiro a farci raccontare allora che cosa sta accadendo in questi istanti che precedono l'inizio dei quarti di finale della scherma. Eccoci qua, entro in questo istante nella Rioca Carioca 3, ecco, iniziano in questo momento, tra l'altro formula spettacolarissima, anche se un po' dispersiva, perché le quattro si svolgono in contemporanea su questa splendida pedana a quattro pedane a quinte. In questo momento Toldo lo sentite, cazza la prima steccata contro Carozzo che protesta con l'arbitro, e avete sentito la corsida, pronto ad infiammarsi, mentre Avola in vantaggio già 1-0 su Massalas, sull'americano Massalas, che ora però piazza 1-1 quando sono passati. E sentite il Brasile. Sì, sentiamo che c'è sicuramente un grandissimo ambiente. Dario, resta lì. C'era un grandissimo ambiente anche questa notte per le stelle del basket americano. take to the rim, then rebounds. Nice one hop pass. George with the reverse. Nino Morici, Gazzetta dello Sport. Ciao Nino, buonasera. Ciao. Buon pomeriggio per te. Ciao a tutti. Leggo il risultato per i pochi che non lo sapessero. Stati Uniti-Cina 119-62. Benvenuto a... non lo chiamiamo Dream Team perché il Dream Team era quello del 1992, però... Non scherziamo. Insomma, tutti quelli che avevano dubbi su come sarebbe atterrata la squadra statunitense di basket in queste Olimpiadi, questa notte se li sono tolti. Ma non del tutto. Io i dubbi ce li ho ancora. La Cina non era, non è più la, ovviamente la Cina di Yao Ming, però non ci andrei piano con i paragoni e ci andrei piano anche con l'assegnare agli Stati Uniti una medaglia che deve ancora essere vinta. Non possiamo dimenticare Atene. Bisogna vedere come si sono allenati, come approcceranno questa Olimpiade. Sono tutti dubbi che ci dobbiamo ancora levare, Nonino. Ma guardate, io li ho visti in questi giorni allenarsi e mi sembrano abbastanza diversi dalla squadra che arriva aperta ad Atene. Non hanno grandissime superstar, tranne Kevin Durant. Ieri sera in 20 minuti aveva 17 punti, 3 assist, 2 rimbalzi. E aveva la faccia come di chi stesse giocando una semifinale olimpica o una partita di playoff NBA e non la prima partita contro una squadra modestissima, giovane, di prospettiva come quella di cinese, ma altamente diversa dalla qualità di Team USA. Io ho l'impressione che questa è una squadra che stia crescendo e che si stia formando. L'aspetto positivo è il modo in cui difendono. Sembra davvero che difendano con intensità da NBA e non soltanto come si dovrebbe affrontare una partita contro la Cina in una prima, in un debutto olimpico, in una partita molto molto semplice dal punto di vista della difficoltà puramente tecnica. In difesa questa è già una squadra, in attacco no. Lo dimostra il fatto che quando Kevin Durant esce o si spegne o si allenta il ritmo, la palla non gira e c'è qualche difficoltà in più. Però hanno solo da guadagnare. Io faccio fatica a pensare che la Spagna, che ha raggiunto mediamente limiti di età piuttosto allarmanti, o l'Argentina, che abbia la stessa configurazione anagrafica, possa metterle in difficoltà. Mi aspetto qualche sorpresa magari dalla Serbia, che è una squadra uscita benissimo dal preolimpico, o dall'Australia, che ha iniziato non a caso battendo la Francia di Collet in maniera piuttosto netta. Il mio pronostico è chiaramente per Team USA. Sono convinto, come dicevate in studio, che qualche difficoltà potrebbe esserci, però io sto con Sergio Scariolo che dice non crediamo al cappuccetto rosso, l'oro è già segnato. Sì, ha perfettamente ragione quando dice che parlare di possibilità di essere antagonisti degli Stati Uniti, che hanno vinto 6 delle ultime 7 edizioni delle Olimpiadi, è un po' come inseguire le favole. Io credo che il ragionamento sul fatto che siano già una squadra difensiva però toglie mezzo il discorso su un approccio sbagliato. Ne abbiamo lette di tutte anche oggi, di errori nell'entrare in una spa e convinti di entrare in una spa, finire in un hotel a luci rosse. Insomma, alle volte sono anche leggende, no? che accompagnano le avventure delle stelle della pallacanestro statunitense. Credo che questa notte almeno su questo la risposta, Nino, ci sia stata. Sì, almeno su questo sì. Tra l'altro la questione della nave di lusso all'interno della quale si alloggia è molto particolare, perché poi quando parli con loro l'impressione è che manchi quell'esperienza da villaggio olimpico o da città. Ragazzi, lì è una città bellissima, è inutile girarci intorno. Penso che a loro manchi il contatto con la festa che rappresenta l'Olimpiade, con tutto quello che ruota intorno. Stare lì ormeggiati in una nave albergo, per quanto possa essere lussuosa, secondo me dopo un po' ti stupi. Ecco perché magari una gita si è trasformata in qualcosa di diverso. In ogni caso sembra che la versione del tutto non ufficiale, perché non c'è stata alcuna comunicazione, è che i ragazzi si siano trovati lì accidentalmente. Una volta resisi conto del pasticcio, abbiano pagato le consumazioni e lasciato immediatamente il posto. Però è un episodio che la dice lunga. Secondo me vorrebbero stare al villaggio. Non succede dal Dream Team del 92. Mm-hmm. Penso che qualcosa su cui Team USA e il Comitato Olimpico dovrebbero un attimino riflettere. Sì, dovrebbe fare una riflessione. Grazie Nino. Ciao Nino. Grazie a voi. Grazie Nino Morici, Gazzetta dello Sport. Siamo negli ultimi secondi a Londra. Manchester United poco, 2-1 su Leicester. Ma chi non capita di sbagliare e finire quando ci sono di mezzo questi luci rosse, giocatori di basket dell'NBA all'accidentale ci credo davvero poco. Andiamo a Rio dal nostro Dario Ricci. Abbiamo ancora 4 minuti, proviamo a raccontare questi quarti di finale della scherma. Quella torcida è in pazza, ma per fortuna non distrae troppo Garozzo che è avanti 8-4 quando manca 1 minuto e 52 alla fine dell'assalto sul brasiliano Toldo. In difficoltà invece Giorgio Avola, in questo momento però piazza la stoccata del 5 pari con l'americano Massala. Si allunga ancora Garozzo sulla pedana a me più vicina, 9-4 per l'azzurro che sembra in controllo del match, e anche la torcida, come sentite, sembra essere sopita ora che l'azzurro sembra in controllo della sfida. Sulle altre due pedane 8-4 il vantaggio di Safin, del russo Safin, su Chen, mentre è 9-5 avanti Kusen, il britannico che ha eliminato il nostro Andrea Castarà rispetto allo statunitense Menarda. Intanto Mourinho ha vinto il primo titolo sulla panchina del Manchester United, è il Community Shield. Sarà zero titoli. Battuto 2-1 il Leicester di Ranieri con gol di Ibrahimovic, ricordiamo, in più che sospetta posizione di fuorigioco. Adesso torniamo a Rio, allora riepiloghiamo, abbiamo i due italiani che stanno tirando per entrare nelle semifinali, torneo individuale del fioretto maschile. E poi la serata che si apre e che Radio 24 continuerà a raccontare in diretta da Rio de Janeiro durante i notiziari con il nostro Dario Ricci, che ci porterà a fare il tifo per Jessica Rossi, il tiro a volo per Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, nei tuffi per le donne del ciclismo su strada, per il nuoto che sta iniziando adesso le batterie, e c'è questa notte la 4% stile libero per il judo, dove ci sono due italiani che si giocano le medaglie. Stiamo parlando di Fabio Basile nella categoria 66 kg maschile e Odette Giuffrida nella categoria 52 kg donne, entrambi in semifinale. Dario, un minuto ancora, qualcosa meno, per l'ultimo aggiornamento sulla scherma. 10-5 il vantaggio di Garozzo sul brasiliano Toldo a 1:27 dalla fine del primo tempo nell'assalto che vale la semifinale. 5-5 invece alla fine del primo tempo del rispettivo assalto tra Avola e Massalas. Avanti 10-5 Krause su Menarde, 9-5 il vantaggio di Safin sul cinese Chen. Insomma, Garozzo sembra più vicino all'obiettivo di quanto invece non sia Giorgio Avola, impegnato fino all'ultima stoccata finora da Massala. C'è ancora tutta una vita da vivere. Grazie Dario. Ciao Dario, domani. Grazie a voi. Grazie a Dario Ricci. Noi ci dobbiamo fermare qua. Fin qui è stata molto buona. Una giornata interessante. È una domenica che promette. Io ringrazio Giovanni Melchiori, autore di questa puntata, Pietro Lacorte in regia. Noi torniamo domani con il doppio appuntamento, dalle 14 alle 15 tutti convocati, e poi dalle 18 alle 20 tutti convocati alle Olimpiadi. Torna anche maestro Leo Turrini. A domani. Ciao a tutti. Buonanotte, vado a riposare perché devo dire la verità, sono cotto stasera.